personaggi letterari del Falco e il Gabbiano di Enrico Ruggeri. Mettetevi seduti, predisponete i cuori e tenete vicino anche un fazzoletto, perché oggi raccontiamo una storia avvincente, piena di romanticismo, una storia che ha come sfondo la bohème ottocentesca francese. Bohème è un termine intraducibile, insomma è uno stile di vita scapigliato, un'esistenza povera, magari disordinata, però libera, anticonformista, creativa, tipica degli zingari e dei bohemiens. Il termine deriva da Boemia, la regione dell'Europa centrale, oggi occupa gran parte della Repubblica Ceca, perché un tempo si credeva che gli zingari venissero da lì. In realtà gli zingari sono originari dell'India. È un po' come quando uno dice bestemmia come un turco, fuma come un turco, perché una volta gli stranieri che arrivavano dal sud-est del mondo erano tutti turchi. Comunque, bohemien, una vita senza fissa dimora, fuori dagli schemi sociali, caratterizzata da una povertà di fondo, ma anche da una grande libertà, allegria, insomma, una vita da bohème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème. Ecco, per esempio, una descrizione della vita bohémienne di un grande scrittore francese che si chiama Henri Mouget. Pioggia o polvere, freddo o solleone, nulla arresta questi arditi avventurieri. La loro esistenza è un'opera di genio di ogni giorno, un problema quotidiano che si pervengono sempre a risolvere con l'aiuto di audaci matematiche. Quando il bisogno ve li costringe, sono astinenti come anacoreti, ma se nelle loro mani cade un po' di fortuna, eccoli cavalcare in groppa alle più fantasiose matterie, armando le più belle donne e le più giovani, bevendo i vini migliori e i più vecchi, e non trovando mai abbastanza aperte le finestre onde gettar quattrini. Poi, l'ultimo soldo morto e sepolto, eccoli ancora a desinare alla tavola rotonda del caso, a caccia da mattina a sera di quell'animale feroce che si chiama il soldo. La bohème ha un parlare suo speciale, un gergo. Il suo vocabolario è l'inferno della retorica e il paradiso del neologismo. E questa storia parte proprio da questa gelida soffitta dove abitano quattro giovani bohemien parigini, quattro ragazzi amici tra loro. Rodolfo è un poeta, Marcello un pittore, Colline che sarebbe un filosofo e Chonard che è un musicista. Sono diversi tra di loro ma hanno una cosa in comune: sono tutti senza soldi e sono degli squattrinati cronici, indietro con i pagamenti, scappano quando vedono il loro padrone di casa Benoit, mangiano poco o niente, non hanno soldi per comprare della legna per il camino, quindi sono sempre al freddo. Insomma, conducono una vita molto dura che sopportano probabilmente solo grazie al fatto che queste cose le puoi vivere solo se sei molto giovane. Però sono sempre allegri, appunto, hanno sempre voglia di ridere, di scherzare. In casa loro arriva una sera gelida, e la vigilia di Natale arriva la nostra protagonista di oggi, una bella ragazza, Lucia, tutti la chiamano Mimì, è una ricamatrice di fiori, abita nello stesso casamento dei quattro amici. Mimì era una graziosa ragazza che doveva particolarmente simpatizzare e combinare con gli ideali plastici e poetici dei giovani bohemien. 22 anni, piccola, delicata, il suo volto pareva un abbozzo di figura aristocratica. I suoi lineamenti erano d'una finezza mirabile. Il sangue della gioventù scorreva caldo e vivace nelle sue vene e coloriva di tinte rosse la sua pelle trasparente dal candore vellutato della camelia. Questa beltà era affetta dal mal sottile che la rendeva molto seducente, ma quello che più la faceva adorabile erano le sue manine, che essa sapeva, anche tra le faccende domestiche, serbare più bianche di quelle della dea dell'ozio. Mimì naturalmente è poverissima anche lei, e tra le cose che le mancano ci sono proprio anche i fiammiferi. Insomma, le si spegne la candela, non sa come fare, pensa di bussare alla porta dei suoi vicini di casa per farsi aiutare, ma in quel momento Rodolfo è da solo perché gli altri tre sono fuori a festeggiare il Natale. Chonard, il musicista, provvidenzialmente ha trovato un lavoretto, ha guadagnato un po' di soldi, quindi gli altri sono fuori per una piccola cena. Rodolfo invece deve consegnare un articolo che sta scrivendo per un giornale, si è attardato a casa, li raggiungerà dopo. Quando Mimì bussa alla porta e lui le apre, rimane folgorato all'istante da quella ragazza così bella. Le riaccende il lume, poi fa di tutto per trattenerla. Lei ha anche un mancamento, è sintomo del mal sottile, la tubercolosi, il male che colpisce persone come lei, persone delicate e che vivono in condizioni igieniche particolari, costrette al freddo, insomma una vita di stenti. È il male dei poveri, la tubercolosi. Lui cerca di rinfrancare Mimì, le offre un po' di vino, vuole trattenerla anche perché se ne è innamorato subito. Lei fa per andarsene, quando apre la porta il vento delle scale spegne tutti e due i loro lumi. Lei si accorge di avere perso la chiave della sua stanza, insomma il destino è galeotto, e i due ragazzi entrambi in ginocchio tastano il pavimento per cercare la chiave. Rodolfo le si avvicina sempre più fino a quando le prende la mano, ed è una mano gelida, anzi una gelida manina. L'anima, oh milionaria, dice Rodolfo a Mimì, e in povertà mia lieta, scialo da gran signore, rime e inni d'amore. È il suo stile di vita, il suo modo di pensare, una dose di sana incoscienza giovanile, è l'espressione tipica di quella particolare gioventù parigina che vive il momento, coglie l'attimo, si nutre di arte, non pensa al domani. Rodolfo è così, vive la sua vita con passione, è un poeta, è un animo sensibile, si sente invadere subito da questo sentimento fortissimo nei confronti di quella ragazza che è entrata per caso nella sua vita, vuole sapere tutto di lei, le ha aperto il suo cuore, le ha detto sinceramente che è uno squattrinato che vorrebbe fare il poeta ma che si sta arrabattando a scrivere articoli per pochi soldi. Adesso tocca a lei raccontare. Questa giovane ricamatrice di fiori, Mimì, è un po' il fuoco sotto la cenere, sembra una ragazza tranquilla, con l'unico svago, diciamo, lavorativo di disegnare gigli e rose. Poi però il suo racconto si fa più interessante. Dice che le piacciono le cose che hanno una dolce malia, che si chiamano poesia. Lui, Rodolfo, è un poeta, glielo ha detto, quindi lei praticamente gli sta dicendo che lui le piace. Gli racconta che sa cucinare, che vive da sola, insomma fa di sé un bel quadro perfetto, si autopromuove e non manca di fargli capire che è anche passionale. Quando viene lo sgelo, il primo amore mio, gli dice, insomma, sono pronta a scaldarmi se c'è l'occasione. E Rodolfo capisce tutti i sottintesi di Mimì, i suoi amici lo chiamano, lo stanno aspettando per andare a festeggiare assieme, ma lui vuole restare solo con Mimì, prova a baciarla. Lei naturalmente fa un po' la ritrosa, un po' ci sta, un po' non ci sta, alla fine gli propone di uscire, andiamo assieme fuori con i tuoi amici a festeggiare. Rodolfo è al settimo cielo, quella proposta è il preludio per lui di qualcosa di molto piacevole. E noi ci spostiamo al quartiere latino di Parigi, c'è un crocicchio di vie che poi prende una forma di piazzale, ci sono le botteghe, i venditori di ogni genere, c'è il caffè Mumu di lato, è la vigilia di Natale, gran folla, borghesi, soldati, ragazzi, bambini, studenti, sartine, e i venditori che fuori dalle loro botteghe stanno gridando a squarciagola per invitare la folla dei compratori. Bene, in questa gran calca di gente ci sono Rodolfo e Mimì da una parte, Colin invece è nella bottega di una sarta, Chonard è da un ferravecchio, sta cercando di comprare una pipa, Marcello è spinto dal capriccio della gente, cioè dall'onda della folla. Insomma è un'atmosfera bellissima, natalizia, con le botteghe piene di lampioncini e di fanali accesi, tutti sembrano allegri. Gustavo Colin, il grande filosofo, Marcello, il grande pittore, Rodolfo, il grande poeta, e Chonard, il grande musicista, come essi si chiamavano a vicenda, frequentavano regolarmente il Café Momieu, dove erano soprannominati i quattro moschettieri, perché indivisibili. Essi giungevano infatti e giocavano e se ne andavano sempre insieme e spesso senza pagare il conto e sempre con un accordo degno dell'orchestra del conservatorio. I quattro amici sono molto affiatati, stanno sempre assieme, si raccontano tutti, quindi quando Rodolfo arriva accompagnato da Mimì, gli altri la vogliono conoscere. È una novità, insomma, questa ragazza giovane e carina che sembra già molto intima del loro amico. E Rodolfo è innamorato di Mimì e ci è cascato dentro completamente. È senza soldi per mangiare, però le compra un regalino, una cuffietta di pizzo rosa. Insomma, i ragazzi sono veramente felici, se la stanno godendo. A un certo punto però Marcello il pittore si fa scuro in viso, perché al caffè Mumu è arrivata una persona che lui avrebbe preferito non vedere. Cerca di evitare tutti i posti che conosci anche tu, diceva una canzone recente. È Musetta, la sua ex. All'angolo di via Mazzarino appare una bellissima ragazza dal fare civettuolo ed allegro, dal sorriso provocante. Le vien dietro un signore anziano, pomposo, pieno di pretensione negli abiti e nei modi, nella persona. Lei, con passi rapidi, guardando qua e là, come in cerca di qualcuno, chiama l'uomo come un cagnolino, mentre lui la segue stizzito, sbuffando. Musetta era stata la fidanzata di Marcello. Marcello era innamorato di lei, lei lo aveva lasciato perché lui era troppo squattrinato. Insomma, è una vecchia storia. Adesso Musetta si presenta in compagnia di Alcindoro, vecchio e ricco, sembra un po' una canzone di Masini. Marcello soffre terribilmente nel vederla. Il suo nome è Musetta, cognome Tentazione. Per sua vocazione fa la rosa dei venti. Gira e muta sovente amanti e amore. E come la civetta è uccello sanguinario. Il suo cibo ordinario è il cuore. Mangia il cuore! Per questo io non ne ho più. E Musetta fa quello che a volte le donne fanno. Quando vede Marcello comincia a provocarlo, fa di tutto per attirare la sua attenzione, si mette a fare i capricci come una bambina, dicendo che le fa male una caviglia per via delle scarpe strette. Con questa scusa si scopre la caviglia, mostra la gamba nuda. Questo crea scompiglio nel caffè. Ricordiamoci che siamo nel 1830 e le donne non mostravano le caviglie in pubblico. Insomma, Musetta attira gli sguardi di tutti, però intanto fa gli occhi dolci a Marcello, poi chiede al vecchio amante di andare a comprare un nuovo paio di scarpette. Quello naturalmente se ne va e viene allontanato, questo per essere libera di avvicinarsi a Marcello, che si dimentica subito di essere arrabbiato con lei, perché noi uomini siamo proprio dei gonzi. Alla fine, insomma, i due si riconciliano e il gruppo di amici con le due ragazze si allontana ridendo dal caffè Momù, lasciando il conto da pagare al riccone, al vecchio Alcindoro. E i ragazzi sono divertiti, è nato un bel gruppo. Si capisce subito che Mimì è completamente diversa da Musetta. Mimì è seria, è riservata, il suo comportamento con Rodolfo è quello di una donna sinceramente innamorata. Musetta no, Musetta ama farsi vedere, stare al centro dell'attenzione. Insomma, oggi sarebbe una blogger o qualcosa del genere, no? Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. La nostra protagonista di oggi è Lucia, tutti la chiamano Mimì, è una ragazza bella, dolce, che fa la ricamatrice. La vicenda si sta svolgendo nel 1830 in una Parigi in festa, perché siamo a Natale. Mimì avrebbe poco da festeggiare perché è poverissima, abita in una soffitta fredda e umida, mangia quando capita, si è ammalata del mal sottile, la tisi, la tubercolosi, quella che colpisce proprio le persone come lei, quelli che vivono distinti. E Mimì ha conosciuto Rodolfo, è un poeta squattrinato, è nello stesso casamento, e lui divide una soffitta fredda e umida con tre amici, un pittore, un musicista e un filosofo, una gaia vita, diciamo, una vita di bohème, con i soldi che mancano, si digiuna, ma con la gioventù, la spensieratezza che li aiutano a superare questi ostacoli. E poi Mimì e Rodolfo si sono conosciuti, è un colpo di fulmine reciproco, i due che si sono innamorati alle all'istante. E nel frattempo c'è una storia d'amore parallela, molto diversa. C'è Marcello, il pittore, uno dei quattro amici, che ha una storia d'amore con Musetta. Musetta è una giovane cantante, è l'esatto opposto di Mimì, sarebbe una perfetta ospite della casa del Grande Fratello, è una molto vanitosa che gira con un uomo anziano che sfrutta, ma è intanto fa la civetta, cambia fidanzato, le piace piacere agli uomini, insomma non mi fate dire degli aggettivi. Noi intanto però impariamo a conoscere Mimì proprio attraverso il suo contrario, perché quello che è una non è l'altra. Musetta, per originaria malattia di famiglia e per materiale istinto, possedeva il genio dell'eleganza. Questa curiosa creatura dovette, appena nata, domandare uno specchio. Intelligente ed arguta, ribelle soprattutto a quanto sapesse di tirannia, non aveva che una regola: il capriccio. Certo, il solo uomo da lei veramente amato era Marcello, forse perché egli solo sapeva farla soffrire, ma il lusso era per lei una condizione di salute. Mimì invece il lusso non sa cosa sia, non ha un carattere capriccioso, è dolce, ama Rodolfo teneramente, cerca di nascondere la sua malattia perché non vuole che il suo innamorato si preoccupi. Tra l'altro lei si è trasferita a vivere con Rodolfo e coi suoi amici anche per cercare di dividere quel poco che hanno. Dopo pochi mesi le cose non vanno già bene, i due litigano spesso, la causa è soprattutto il brutto carattere di Rodolfo. La voce di Mimì aveva una sonorità che penetrava nel cuore di Rodolfo come rintocchi di un'agonia. Egli però aveva per lei un amore geloso, fantastico, bizzarro, isterico. 20 volte furono sul punto di dividersi. Convien confessare che la loro esistenza era un vero inferno. Non di meno, in mezzo alle tempeste delle loro liti, di comune accordo si soffermavano a riprendere Lena nella fresca oasi di una notte di passione. Ma all'alba del domani, una improvvisa battaglia faceva fuggire spaventato l'amore. Così, se fu vita, vissero giorni lieti, alternati a molti pessimi, nella continua attesa della separazione. Rodolfo va in giro a dire a tutti che vuole lasciare Mimì, che lei è poco seria, che fa la civetta, però non quadra nulla di questa accusa. Avesse parlato di Musetta, tutti sarebbero stati d'accordo. Mimì è un altro genere di donna. La verità è che è Rodolfo che è geloso e gli amici glielo rinfacciano, gli dicono che è collerico, che vede il male dove non c'è. Probabilmente è anche quella giovanile paura di essere troppo innamorati. E Marcello, il pittore, che è l'amico più fraterno di Rodolfo, capisce che c'è qualcosa sotto, gli dice: non so perché, ma tu non mi sembri sincero. A quel punto Rodolfo svela il suo piano, perché Mimì lo sa, è una ragazza stupenda, fedele, lui la ama appassionatamente, però lei è malata, ogni giorno la sua tosse più insistente, e la vita nella soffitta fredda e umida non fa per lei, sta rischiando la morte. Lui è deciso di portare la loro relazione alla fine, cerca di esasperarla per spingere a lasciarla e magari a cercarsi un uomo più ricco che possa curarla e offrirle una vita diversa. Quindi in realtà scopriamo in Rodolfo, come dire, una nobiltà d'animo assolutamente suprema. La mia stanza è una tana squallida, il fuoco spento, ventra e la gira il vento di tramontana. Essa canta e sorride e il rimorso m'assale. Me, causa del fatale mal che l'uccide. Mimì è un fiore di serra, la povertà l'ha sfiorita. Per richiamarla in vita non basta l'amore. Insomma, il piano di Rodolfo è dettato dal suo profondo amore per Mimì. Il piano viene scoperto perché la ragazza ha ascoltato la conversazione tra il suo fidanzato e l'amico pittore. Un colpo di tosse svela la sua presenza. Naturalmente questo episodio non fa altro che fare innamorare ancora di più l'uno dell'altro. Non ci sono soluzioni, però, perché a questo punto bisogna lasciarsi per troppo amore. Mimì accetta di abbandonare Rodolfo e di trasferirsi lontano dalla sua soffitta. Nel frattempo anche Marcello e Musetta sono ai ferri corti di nuovo. Il loro caso invece è decisamente diverso, si parla di gelosia a ragion veduta, di civettamenti, di corna, perché Musetta effettivamente ha un comportamento che farebbe imbestialire qualunque fidanzato anche oggi, figuriamoci nel 1830, perché fa la scema con tutti, soprattutto da quando ha trovato lavoro come maestra di canto, ha occasioni di incontrare gente, insomma, e i due litigano furiosamente, vipera civetta, è quello che lui le dice, e lei gli dice pittore da bottega, rospo, e lui le dice strega, insomma, alla fine Musetta se ne va per sempre, è un addio diverso, insomma, mentre tra Rodolfo e Mimì è l'addio disperato di due innamorati che vorrebbero stare assieme, ma sono resi impossibilitati dalle circostanze, non riescono a trovare una soluzione, qua invece ci sono la civetta e il geloso che litigano e si lasciano. Insomma, l'addio, quello straziante, è proprio quello tra Rodolfo e Mimì. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. Sono passati diversi mesi, Rodolfo e Marcello si sono dovuti rassegnare all'idea di essere da soli senza le donne che loro amano, però anche se fingono che vada tutto bene, uno scrive, chissà perché compone solo poesie d'amore, l'altro dipinge e in realtà raffigura sempre la stessa donna che ha le fattezze della sua ex innamorata, i due si confidano il loro dolore, le loro pene d'amore, si convincono che sia la cosa migliore l'essersi separati dalle due ragazze, ma in realtà il cuore sta dicendo a loro tutt'altro. Marcello peraltro sa che Musetta è una donna di quelle dalle quali fuggire subito, capisce che con lei non possono che arrivargli dei dispiaceri, però gli manca tutto di lei. Rodolfo invece sa che il suo sacrificio è per il bene di Mimì, ha saputo che si è messa con un uomo ricco, proprio quello che le aveva augurato lui, spera che la ragazza possa curarsi dalla tisi, vivere negli agi, ovviamente però la ama e soffre terribilmente per la gelosia, per la lontananza. E quando i quattro amici sono tutti assieme a Colin Chouinard, gli altri due si fanno battute e questi giochi da bohemien, ma in realtà queste battute stanno solo mascherando il dolore dei due. E una sera, mentre stanno consumando il loro solito pasto frugale, questa volta pane e aringhe, si spalanca la porta ed entra Musetta e in preda all'agitazione c'è Mimì con lei, non è riuscita a fare le scale perché sta troppo male. I ragazzi si precipitano fuori, riportano Mimì in braccio fino in casa e la adagiano su un letto. Musetta racconta che qualcuno le aveva confidato giorni prima che Mimì non aveva retto alla relazione con quest'uomo ricco che non amava, lo aveva lasciato, si era ritrovata povera, sola, malata, a girovagare per le strade. Allora lei, Musetta, l'aveva cercata dappertutto, l'aveva trovata e lì vicino a casa loro stava cercando Rodolfo. Mimì è in fin di vita, ha bisogno di medicine, di qualcosa da mangiare, in casa i ragazzi non hanno niente, Musetta si toglie gli orecchini e li consegna a Marcello perché corra a venderli e a comprare il necessario per l'amica. Anche Colin contribuisce alla colletta con l'unica cosa che ha, un vecchio e logoro cappotto che possiede da anni, al quale è molto affezionato. Gli amici escono tutti, lasciano Mimì e Rodolfo un po' da soli, hanno capito che sono gli ultimi istanti di vita della ragazza, che i due hanno delle cose da dirsi. Mimì parla al suo innamorato, ha solo un filo di voce, ma riesce ugualmente a dirgli quello che ha nel cuore. Sono andati. Fingevo di dormire perché volevo restare con te da sola. Ho tante cose che ti voglio dire. Ho una sola, ma grande come il mare. Come il mare profonda e infinita. Sei il mio amore e tutta la mia vita. E Mimì fa tempo a salutare tutti gli amici, rientrati con le medicine, con qualcosa da mangiare, poi le manca il fiato, si assopisce, sembra dormire e in realtà la vita l'ha già abbandonata. l'amore ha dei colpi d'ala, però l'amore è anche sofferenza, è anche travaglio interiore, soprattutto quando ami una persona sei certo che questa persona sarebbe la persona giusta, ma qualcosa ti impedisce di passare la vita con questa persona. E ognuno di noi deve superare delle prove, i colpi d'ala sono anche questo. Se volete mandare dei commenti, segnalare altre vite sulle quali puntare il mio microfono, scrivete a ilfalcoilgabbiano@radio24.it, scrivete al nostro sito, venite a trovarmi, a trovarci nei miei, nei nostri social. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.